si può fare. Cronache da un paese migliore. Si può fare. Di Alessio Maurizi. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno da Alessio Maurizio, eccoci qua con Si può fare, ben ritrovati, staremo insieme fino alle 10, un'occhiata alle prime pagine dei giornali, poi i nostri approfondimenti, le buone notizie, vi dico subito che parleremo anche noi di legge di stabilità, perché tra le pieghe della legge di stabilità ci sono i 4 miliardi di euro che il governo vorrebbe reperire dalla lotta all'evasione fiscale, ma i comuni lanciano un allarme, c'è un accordo in scadenza di collaborazione tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate. I comuni fin qua hanno collaborato con l'Agenzia delle Entrate fornendo dati e insomma favorendo la scoperta soprattutto di evasori totali, che sono quelli più odiosi. Ebbene, questo accordo in scadenza mette a rischio questa collaborazione, quindi questi 4 miliardi di euro che il governo ha messo ottimisticamente in previsione. E poi un'altra cosa che riguarda, se volete, la più piccola di tutte la legge di stabilità, il miliardo di euro di entrate che il governo prevede di trarre dalle slot machine con un cambio del payout, cioè meno guadagni per chi gioca e più incassi per lo Stato. Una follia nel momento nel quale si parla di mettere regole, paletti al gioco delle slot machine, che svuota le tasche spesso e volentieri dei più poveri, un record negativo dell'Italia nell'Europa e nel mondo. Ne parleremo più avanti. Adesso però, come sempre, andiamo ad iniziare con una buona notizia. And now, the good news! Cerchiamo un po' di luce questa mattina, inizio puntata, andando nelle Marche e in particolare sulle rive del fiume Chienti a Tolentino, vicino Macerata, dove c'era un'azienda in crisi, la Conceria del Chienti, che adesso ha trovato un investitore. È il colosso industriale pubblico cinese Jiwa Group, 30 miliardi di fatturato di dollari, tra le 50 aziende cinesi più grandi, primo fornitore di calze alzature per l'esercito cinese, e insomma ha rilevato questa conceria storica italiana che era in difficoltà ed era, diciamo così, sulla soglia del fallimento. Un'azienda italiana in più che si salva grazie agli investimenti dei cinesi. Vedremo insomma se alla buona notizia del salvataggio dell'azienda seguiranno la notizia di questa azienda che resta in Italia, ma scommettiamo di sì, altrimenti perché i cinesi dovrebbero investire sul Made in Italy? Semmai ci domandiamo perché non ci siano investitori italiani che fanno altrettanto. Vai! Oh, ma adesso andiamo a vedere di che cosa si occupano i giornali di oggi e cominciamo con il Corriere. Ucraina, prima intesa a Milano, questa è una notizia che riportano un po' tutti i giornali, una buona notizia. Conclusi due giorni di incontri all'ASEM, Putin, il presidente russo, annuncia la ripresa delle forniture di gas. E poi controlli anche con droni italiani alla frontiera. Vedremo più avanti anche all'interno di altri giornali di cosa si tratta, i contenuti di questa intesa. E poi l'altra notizia che riguarda l'estero è questa: patto per liberare le 200 liceali rapite in Nigeria. Questa è un'altra buona notizia. Le studentesse rilasciate in cambio di detenuti, sarebbe questo l'accordo tra la Nigeria e il gruppo terrorista di Boko Haram, che rapì 200 ragazze più di 6 mesi fa. Oh, ma naturalmente c'è ampio spazio al braccio di ferro tra il governo e le regioni in materia di legge di stabilità. Braccio di ferro che sta monopolizzando l'attenzione, anche se adesso pare che ci sia in vista un'intesa, ma è solo un capitolo della legge di stabilità. Altri ne abbiamo ricordati prima in apertura e ne parleremo anche più avanti, che riguardano i comuni e le slot machine, la lotta all'evasione fiscale. Leggiamo il commento su questi temi, come sempre illuminante, di Sergio Rizzo sul Corriere. Non è un delitto tagliare del 2%. Facciamo davvero fatica a comprendere il lamento delle regioni. Il sacrificio chiesto dal governo equivale a circa il 2% di una spesa pubblica regionale che, da quando nel 2001 è stato approvato il nuovo titolo quinto della Costituzione, è andata letteralmente in orbita. In un solo decennio la crescita reale, depurata dall'inflazione, è stata di oltre il 45%, con una qualità dei servizi che certo non ha seguito lo stesso andamento. Cioè, in questi 15 anni la spesa delle regioni è cresciuta del 45%, adesso si chiede un taglio del 2%. Si potrà dire che in 15 anni sono cambiate le cose, la vita media si è allungata, la popolazione è più anziana, la sanità italiana, gestita dalle regioni, è considerata tra le migliori d'Europa al netto delle grandi differenze territoriali. Resta il fatto che nel 2000 la spesa sanitaria pro capite era 1215 euro, oggi è 1941 euro, insomma con un aumento del 60%. Il presidente del Lazio, Zingaretti, ha spiegato che in un anno è riuscito a ridurre di 181 milioni la bolletta sanitaria senza colpo ferire, solo razionalizzando acquisti e spesa farmaceutica. Sentite qua, la Consip, la società statale che gestisce gli acquisti della pubblica amministrazione, ha fatto risparmiare 100 milioni su 320 soltanto con una fornitura centralizzata delle strisce di carta per la misurazione, no, delle strisce per la misurazione della glicemia, comprate a un prezzo unitario di 19 centesimi, mentre prima si andava da un minimo di 45 a un massimo di 1,10 euro, cioè 5 volte tanto. Tanto basta per capire quanto grasso ci sia ancora nei conti della sanità. E va bene, altre cose leggeremo più avanti, per esempio l'intervista al vice segretario del PD, governatore del Friuli Venezia Giulia Serracchiani, che invita i governatori: dobbiamo ammettere che gli sprechi ci sono. Il parere opposto di Sergio Chiamparino sulla Stampa, che dice: da Matteo che mi ha deluso neppure un SMS. E poi insomma c'è la solita lamentazio sul perché e il per come non bisogna tagliare i fondi alle regioni. Di fianco il commento di Mattia Feltri, che ricorda invece alcuni di questi sprechi clamorosi già tirati fuori in ballo in passato: 400 milioni di euro spesi in Molise per commissionare alla Pontificia Fonderia Marinelli la campana con rintocco adatto alle celebrazioni giubilari nel 2000, 400 milioni di euro per una campana in Molise, oppure 65 milioni di euro stanziati in Lazio per sovvenzionare la festa del nonno ad Ariccia. Ragazzi, 65 milioni di euro ad Ariccia, credo che divisi per ogni abitante avrebbero arricchito l'intera popolazione per tutta la vita. Repubblica ci anticipa, ma leggeremo più avanti perché siamo quasi in chiusura di questo primo spicchio di rassegna stampa: ecco la mediazione dei governatori, pronti a rinunciare a 2 miliardi dal fondo che il governo, che lo Stato stanzia ogni anno nei confronti della sanità. Invece di risparmiare 4 miliardi, lo scambio è la diminuzione da 112 a 110 miliardi di euro che vengono stanziati dallo Stato nel fondo sanitario nazionale. Il titolo del Sole 24 Ore: borse, l'Europa recupera, Milano più 3,4%, Atene più 7%, sale anche Wall Street. Draghi: possibile usare il tiltro per investire in titoli di Stato. Dal lunedì via all'acquisto di ABS. Ci fermiamo. Poi naturalmente c'è Matera, capitale europea della cultura 2019, ne parleremo dopo. Rassegna stampa europea, giornale radio, ci risentiamo tra 20 minuti, 25. A più tardi, a dopo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Buongiorno cari ascoltatori, buongiorno, 8:20, ben ritrovati da Alessio Maurizi, eccoci qua, numero verde 800 24 00 24 per intervenire in diretta come ogni sabato e domenica mattina. Aspettiamo i vostri interventi per mettere al vaglio della vostra opinione le buone notizie di cui parleremo più avanti. Adesso daremo ancora un'occhiata, riprendiamo, concludiamo la rassegna stampa di oggi. Vi ricordo anche che se volete interagire con noi in tempo reale ci trovate su Twitter l'account del programma è @sipoffare24, il mio è @AleMaurizzi. Allora, riprendiamo, parleremo più avanti di legge di stabilità anche noi, perché c'è a rischio l'accordo tra i comuni e l'Agenzia delle Entrate, che fin qua ha portato a importanti risultati, alla scoperta di molti evasori totali, ma il governo non ha ancora rinnovato questo accordo che facilita il lavoro dei comuni e consente loro di recuperare il 100% di quello che viene appunto recuperato in termini di evasione fiscale. Quindi 4 miliardi di euro che il governo Renzi ha messo in previsione nella legge di stabilità, da questo punto di vista potrebbero essere a rischio, per non parlare di tutto il resto. Ma è questo il tema che domina anche i giornali di oggi. Abbiamo già iniziato con i titoli nella prima parte della rassegna. Il commento di Sergio Rizzo sul Corriere della Sera: non è un delitto tagliare del 2% spese e sprechi delle regioni. Leggiamo all'interno: le spese e gli organici lievitati di 20 piccoli stati indipendenti, una sindrome dagli effetti sconcertanti, come dimostra la costosissima proliferazione di sedi estere, per esempio da Bruxelles al Sud America alla Cina. Si è arrivati a creare strutture come il Centro Estero per l'Internazionalizzazione Piemontese, che ha come obiettivo quello di rafforzare il Made in Piemonte, mentre la vicina regione Lombardia lanciava il progetto Made in Lombardy. I rigagnoli di spesa si sono moltiplicati, scrive ancora Rizzo, diventando fiumi in piena. Gli organici sono arrivati a sfiorare 80.000 dipendenti regionali in tutta Italia. Nella Calabria, in Calabria, l'ispettore spedito dal Ministero del Tesoro, Calabria commissariata, come sapete, ha raccontato cose turche. Per esempio, 1969 promozioni fatte in un solo anno, aumenti di stipendio retroattivi assegnati a 85 impiegati nei gruppi politici. In Lazio invece, per tutti gli anni 2000, si è registrata un'impennata pazzesca del personale dei parchi. Nel 2009 erano 1271 con 99 dirigenti dei parchi, e così via. Insomma, questo è tutto il mare magnum della spesa delle regioni, cresciuta del 45% negli ultimi 13 anni, ci ricorda Rizzo, da quando è stato modificato il titolo quinto della Costituzione, quindi più poteri alle regioni, ma sono cresciute moltissimo le spese. Oggi si chiede un taglio del 2%, affrontabile secondo il Rizzo, commentatore, ma del Corriere, ha scritto diversi libri, e il tenore dei commenti è questo, un po' da tutte le parti. Anche il vicepresidente del PD Seracchiani, governatore del Friuli Venezia Giulia, ammette sempre sul Corriere: noi governatori dobbiamo ammettere che ci sono degli sprechi. Se il governo le chiedesse di tagliare ancora le spese del Friuli, lei ce la farebbe? Non ho mai usato il verbo tagliare, dice la Seracchiani, preferisco parlare di riqualificazione della spesa. Con quali risultati? Le cito il giudizio di Standard & Poor's, secondo cui la mia regione, nonostante la riduzione delle entrate, manterrà i parametri di crescita anche grazie al controllo della spesa. Vale anche per la sanità? Certo, si può fare una sanità migliore a costi minori, però devi mettere in conto che sfidi qualche potere forte locale. Andiamo sulla Stampa, dove l'intervista invece di tono opposto è quella a Sergio Chiamparino, presidente del Piemonte, che dice: Matteo mi ha deluso, da lui neppure un sms, abbiamo già letto prima. Del Rio: ero in contatto con Del Rio, sapevo di un taglio di 3 miliardi, non di più, evidentemente c'è stato un cambiamento di rotta negli ultimi giorni. Con il Premier nemmeno un sms, ce ne siamo scambiati un po' nelle scorse settimane sull'articolo 18, una volta mi ha anche chiamato chiedendomi consigli sul trasporto pubblico, ma sui tagli alle regioni niente telefonate, niente sms. Renzi dice: le regioni pensino a tagliare i loro sprechi. Risposta di Chiamparino: se parliamo di sprechi, potrei dire che ce ne sono molti di più nei ministeri. Sempre la logica, stessa logica per cui gli sprechi sono sempre da un'altra parte. Eppure, dice Chiamparino, la manovra prevede 4 miliardi di tagli per noi e 6 miliardi di tagli ai ministeri. Non che 6 miliardi di tagli ai ministeri siano pochi, Chiamparino. Questo lo aggiungiamo noi. Poi ancora, Dice, insomma, se non si trova una modalità per correggere la finanziaria, dovremmo tagliare su sanità e trasporti il 90% delle spese della regione. Sta lì. Certo, la sanità, Chiamparino, però, come è stato più volte detto, la benedetta questione dei costi standard potrebbe portarvi a risparmiare moltissimo nelle regioni, eh? Questo bisogna dirlo, spendendo meno, per esempio, come ricorda ancora sul Corriere di oggi Sergio Rizzo, solo per le strisce per la misurazione della glicemia, la Consip, la società di gestione che gestisce gli acquisti della pubblica amministrazione, è riuscita a risparmiare 100 milioni su 320, cioè un terzo, solo per l'acquisto delle strisce per la misurazione delle glicemia comprate a costi ragionevoli, anziché sputtanando, scusate l'espressione, i soldi dei contribuenti pagandole 5-6 volte di più i prezzi di mercato. Chissà perché, per fare contento qualcuno forse. E via dicendo. L'accordo che si va prefigurando con le regioni comunque c'è, il retroscena di Repubblica, ecco la mediazione dei governatori pronti a rinunciare a 2 miliardi della sanità. I governatori avevano ottenuto di innalzare per il 2015 da 110 a 112 miliardi il Fondo Sanitario Nazionale. Bene, ora Chiamparino e colleghi sarebbero disposti a rinunciare a tale faticoso risultato. Con l'aggiunta di altri risparmi si arriverebbe ai 4 miliardi di risparmi chiesti dal governo. In cambio di tali aperture, le regioni si impegnerebbero a onorare una condizione: niente ticket sanitari né aumento delle tasse locali. Ieri c'è stata anche una manifestazione a Roma, a Torino, sul lavoro con scontri. Il segretario della FIOM Landini dice: gli agenti hanno esagerato, ma gli ordini venivano dall'alto. Io, grande rispetto, dice Landini, per i lavoratori delle forze dell'ordine, penso che se hanno lanciato lacrimogeni contro chi pacificamente ascoltava un comizio sindacale, lo abbiano fatto seguendo ordini che arrivavano dall'alto. Pensa al ministro dell'interno o al premier? Non so, risponde Landini. Vedo che di fronte alla provocazione di alcune decine di persone senza rappresentanza che cercano visibilità, accodandosi ai nostri cortei, si è deciso di lanciare i lacrimogeni verso le migliaia di lavoratori che ascoltavano il nostro comizio. Questo non è accettabile, dice Landini. Alla fine, insomma, non è andata neanche malissimo. In altri casi manifestazioni del genere con disordini del genere sono degenerate ancora di più, ma questo è il clima in Italia. Un po', insomma, è questo anche il clima che c'è. Per esempio a Terni ieri un'altra manifestazione non ha fatto notizia perché non ci sono stati scontri, però tant'è, 20.000 no ai licenziamenti, tutta la città ferma contro la Thyssen. Circa 20.000 persone hanno sfilato in corteo a Terni per manifestare contro il piano di ThyssenKrupp, che prevede 550 licenziamenti per lo stabilimento AST. Chiudiamo ancora con Landini su Renzi. Dice: ma lei non era il sindacalista amico di Renzi? Con Renzi ho sempre discusso nel merito, fino a pochi mesi fa questo è stato possibile, poi evidentemente il premier ha scelto una strada diversa, ha accettato le ricette fallimentari di Confindustria e dell'Unione Europea che hanno già creato 25 milioni di disoccupati e ha teorizzato che i sindacati sono inutili. Stiamo dandoci da fare per smentirlo. E va bene. Altri titoli con altre notizie sugli altri giornali, velocemente. Pure la tassa Rai, scrive il giornale. Governo ingordo. Il canone diventa un'imposta, dal 2015 la pagherà anche chi non ha la televisione. Poi il Messaggero sulla manovra ci ricorda l'assist del Colle, perché Napolitano blinda la legge di stabilità, ci sono le misure necessarie per la crescita. Questo il commento, anche se il Fatto Quotidiano invece la vede così. Sorpresa, la manovra va riscritta, dal TFR alla scure sui comuni, tutto da rifare. La legge di stabilità non sfugge al metodo Renzi, alcune linee guida, un po' di numeri e un testo la cui stesura è rinviata almeno fino a martedì. Cosa ha approvato allora il Consiglio dei Ministri mercoledì sera? Ma il premier incassa il solito appoggio a scatola chiusa di Napolitano e insiste nell'offensiva contro le regioni devastate dai tagli. Devono farsi perdonare, specie alcuni consiglieri. Per Libero i tagli alle regioni sono così: paga chi non spreca. La legge di instabilità alla virtuosa Lombardia ha imposto i sacrifici per quasi 1 miliardo, alla Sicilia delle vergogne chiesti appena 240 milioni di euro. È la prova che Renzi non vuole fare pulizia, ma solo una manovra elettorale. Ancora un titolo dal Messaggero: Roma, tangenti dai ristoranti, arrestati gli ispettori del fisco. Le notizie che non vorremmo mai vedere. 2 ispettori del fisco sono stati arrestati con l'accusa di avere chiesto tangenti per 50.000 euro per evitare gli accertamenti. Non è la prima volta, anzi c'è tutto un filone di indagati nella Guardia di Finanza e nell'Agenzia delle Entrate che, insomma, adesso la giustizia si è messa in testa di andare a stanare. 800 24 00 24. Ci fermiamo, torniamo tra pochissimo. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, cari ascoltatori, di nuovo buongiorno e ben ritrovati da Alessio Maurizio, 800 24 00 24 per intervenire in diretta. Tra poco parleremo anche noi della legge di stabilità, di 2 cose in particolare: quel miliardino di euro che il governo Renzi vuol prendere dalle slot machine. Renzi, che aveva definito una porcata quella norma che tagliava i trasferimenti a comuni e regioni che mettevano limiti alle slot machine, lo ricordate? Era 1 anno e mezzo fa, prima di diventare premier. Adesso che cosa è cambiato? Nel momento in cui giustamente si prende coscienza che bisogna mettere dei paletti al fenomeno delle slot machine che crea ludopatia e toglie di tasca i soldi soprattutto ai più poveri, ebbene, puntare al prelievo di 1 miliardo di euro su questo, cioè finanziare le spese dello Stato con le slot machine, ancora di più pare assurdo e impossibile. Poi ci sono 4 miliardi di euro che il governo vuol prendere dalla lotta all'evasione fiscale. Benissimo, ma i comuni dicono: attenzione, perché c'è un accordo in scadenza, se il governo non lo rinnova noi non collaboriamo più, e quei 4 miliardi di euro potrebbero non esserci come è previsto. Adesso però fatemi dire una cosa anche su Matera, capitale europea della cultura. Nel 2019 noi avevamo seguito tutte le candidature, tutte le altre città, il dossier passo dopo passo. Sentiremo il sindaco di Matera, anzi lo sentirà l'Altra Europa con Federico Taddia più tardi, dopo Si può fare, quindi omaggeremo anche noi giustamente Matera. Oggi sulla Stampa c'è un bel reportage: Cristo non è più fermo a Eboli, Matera capitale della cultura 2019, e ci sono tutti i passi della storia di Matera dal 1953, quando avvenne lo svuotamento dei Sassi per motivi igienico-sanitari, poi la fama internazionale arrivata con Pierpaolo Pasolini nel 64, vi girò il Vangelo secondo Matteo, riconoscimento dell'UNESCO arrivato nel 93, e poi nel 2004 Mel Gibson scelse Matera, la vicina Cracco, per girare il suo film La Passione di Cristo. Va bene, Matera la omaggerà Radio 24 più avanti nel corso dell'Altra Europa. Adesso 800 24 00 24, chiediamo il vostro intervento oggi anche per giocare su questo, sulla giornata mondiale dell'alimentazione. È stata 2 giorni fa, il 16 ottobre, come sempre ogni anno, voluta dall'Organizzazione Mondiale della dalla FAO, dall'Organizzazione dell'ONU per l'alimentazione. Si apre una settimana di eventi, ne racconteremo uno che avviene a Bologna, un evento spettacolare, molto molto spettacolare, dico solo questo. Il tema di questa giornata, di quest'anno, è stato l'agricoltura familiare, nutrire il mondo, preservare il pianeta, perché ci sono 500 milioni di aziende agricole familiari che producono la maggior parte del cibo del mondo grazie allo sfruttamento di terreni agricoli in loro gestione. Noi oggi vi chiediamo, siccome il cibo non si deve sprecare, cari ascoltatori, le vostre ricette per riciclare gli alimenti che avete a casa e che non volete buttare. Scriveteci, cioè telefonateci all'800 24 00 24 con la vostra ricetta di riciclo del cibo, è la più bella, la più originale. Anche oggi vincerà i biglietti per la mostra di Van Gogh che si apre proprio in questi giorni a Milano. Adesso 800 24 00 24, come detto, parliamo di legge di stabilità. Io vendo promesse di ogni sorta, qualcuna la mantengo, di tutte le altre invece non mi importa. Io smisto monetine da gettare in fondo a un pozzo, da grattare sulla patina dorata di un concorso a premi multimiliardari. Diffidate dei falsari, non incolpate me se ci gettate dei denari. Non ho colpa se siete schiavi di una tombola stracolma di tesori che distribuisce a bandere di coccola l'idea di impadronirvi della vincita, vivere di rendita, capita ogni domenica. E se non hai mai vinto fino ad ora, sei stato sfortunato, amico, tenta ancora. Io vendo scommesse sul futuro, qualcuna vince molto, di tutte le altre invece non mi curo. Non ci sono meriti, non c'è una gerarchia, ma solo il cieco meccanismo di una lotteria. Non posso che adeguarmi, non posso lamentarmi, se usate queste mie monete al posto delle armi. I vostri sogni li puntate in questo gioco, vendo un'illusione in più e non è poco. Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovare, l'altra per sparire. Una monetina a te, un'altra monetina pure a lei, così fanno sei. Una monetina per sapere che non ho sbagliato mondo, adesso le ricordo se non mi confondo. Non mi impiccio, se vinci prendi tutto, se perdi in fondo è solo qualche spiccio. Il rischio è minimo, la posta in gioco alta, prendi una moneta amico del gratta. Credici, provaci, potresti fare 13, se cedi il turno adesso sei pazzo, riflettici. Il tuo destino sta girando ora, sei stato sfortunato amico, tenta ancora. Una monetina a te, una monetina pure a te, così fanno tre. Una monetina per questa serata che non può finire, una per trovarti, l'altra per sparire. Una monetina a te, una te, un'altra monetina pure a lei, così fanno sei. Una monetina per poterti dare quello che mi hai chiesto, una per un viaggio, ancora non è tutto. Una monetina per il Chavez, una per Filippo che è partito per Caracas. Allora, in attesa di raggiungere il sindaco di Verona Flavio Tosi, che ha scritto al premier Renzi una lettera, il motivo per cui l'avevamo contattato, per contestare il fatto di questo accordo con i comuni e l'Agenzia delle Entrate che è in scadenza e che mette a rischio la collaborazione dei comuni sul fronte della lotta all'evasione fiscale. Allora, in attesa di Tosi, se qualcuno è vicino al sindaco di Verona gli dia una gomitata di fianco perché deve intervenire a Radio 24, sentiamo gli ascoltatori. Anna Maria dalla provincia di Padova, buongiorno. Buongiorno a voi. Eccoci qua. Lei... La ricetta, quella meravigliosa del riciclo, direi. Benissimo. Allora, in famiglia abbiamo una ricetta particolare, che in realtà è una ricetta veneziana, che esiste nel 600. Fa riferimento alla torta Nicolotta, che è una torta che veniva preparata dalle famiglie della parrocchia di San Nicolò di Mendicoli, che era una parrocchia di un quartiere più povero di Venezia, che era gli abitanti, era appunto il quartiere di Castello. Ricicla pane, nel senso che lo si lascia in ammollo tutta la notte con del latte, dello zucchero, del burro, e poi il giorno successivo questa pappa si forma, viene lavorata con delle uova, cedrini, zuccheri con uvetta, pinoli, poi la si lascia cucinare molto lentamente in forno. La caratteristica di questo dolce era che veniva preparato dalle famiglie, magari anche quelle un po' più abbienti, veniva portato in parrocchia e poi veniva distribuito tra i mendicoli, appunto i mendicanti. Ma Anna Maria, è una ricetta interessante, adesso magari ce la riepiloga velocemente. Sì. A che cosa assomiglia questo? È un po' complicato, a che cosa può assomigliare questo dolce fatto col pane vecchio? Diciamo, l'idea è un po' quella del, immaginiamola di una polentina, quindi di solito va servita o nelle fette o addirittura tagliata quadrata e proprio servita il pezzettone che si mangia così. Va bene, me la ripete velocemente così la segniamo e vediamo poi se vince. Certo. Quindi abbiamo 300 grammi di pane ammollato in un litro d'acqua con dello zucchero e del burro, 100 e 100, dopodiché, per non renderla troppo zuccherina, dopodiché si mettono una manciata di pinoli, una manciata di uvetta, 4 o 5 uova e poi la si lascia cucinare, se poi uno ha cedrini o altre cose può inserirle tranquillamente, può profumarlo con le zeste d'arancio, con la cannella, quindi è molto, da questo punto di vista è molto libera la profumazione, la si inforna a 160 gradi per un'ora e poi si serve. Va bene, va bene. Grazie Anna Maria. Oggi noi vi chiediamo, visto che è stata la giornata mondiale dell'alimentazione e si è aperta una settimana di eventi, il cibo non va sprecato, le vostre ricette per riciclare gli alimenti. Quindi abbiamo iniziato con Anna Maria da Padova, che ci ha suggerito questa interessante, diciamo, ricetta per un dolce fatto con il pane vecchio e il latte. Fulvio da Roma, buongiorno. Buongiorno, innanzitutto complimenti per la trasmissione, ma io avevo chiamato per parlare della legge di stabilità. Sì, prego. No, volevo dire che il discorso degli 80 euro promessi da Renzi, non c'è nessuna differenza secondo me tra una persona che paga un altro per essere votato e quello che ha fatto Renzi. Diciamo che per me è un voto di scambio legalizzato a tutti gli effetti. Vabbè, lei insomma torna sull'argomento degli 80 euro, sì, che adesso tra l'altro verrà confermato. Diciamo, probabilmente, c'è una categoria di persone che, a cui gli 80 euro fanno molto comodo, casomai persone che praticamente indecise e che quindi insomma con gli 80 euro si sono decisi a votare Renzi, ma in realtà secondo me Renzi utilizza molto questi sistemi, ma sono degli spot veramente allucinanti, anche perché io lavoro sul mondo commerciale e praticamente quello che loro stanno, il messaggio che stanno facendo passare è che praticamente le tasse stanno riducendo, in realtà non è così. No, ma Fulvio, lei su questa ragione, gli 80 euro non sono una riduzione di tasse, sono un bonus, non cambiano le aliquote fiscali di nessuno, resta tutto invariato, è un bonus, è qualcosa di diverso che ha l'effetto di aumentare il reddito netto, quindi di diminuire indirettamente la tassazione, però non è una diminuzione di tasse, e molti hanno sottolineato che poteva essere fatto anche nei confronti di chi ha un reddito ancora minore ed è più in difficoltà. Va bene, grazie Fulvio, ci fermiamo per il traffico, torniamo tra un attimo. Si può fare cronache da un paese migliore. 800 24 00 24. Stamattina non siamo partiti con il piede giusto perché il sindaco di Verona Flavio Tosi non ci risponde al telefono. Volevamo parlare con lui dell'allarme lanciato dai comuni sulla compartecipazione dei comuni ai soldi recuperati dalla lotta all'evasione fiscale, 4 miliardi di euro previsti dalla legge di stabilità, e anche di quel miliardino di euro che il governo vuole recuperare da maggiori introiti dal gioco delle slot machine. Tosi è uno dei sindaci che ci ha messo la faccia nello spot contro il fenomeno, insomma, delle slot machine, contro il dilagare. Noi diciamo sempre, non è una crociata quella che facciamo qua dai microfoni, si può fare Radio 24 contro le slot machine, ma insomma chiudono i ristoranti, cinema, le librerie, i teatri, non si capisce perché i comuni non sono liberi di mettere dei paletti alla diffusione fuori da ogni controllo delle slot house e delle slot machine. Ovunque, un'economia che a monte non ha niente di produttivo, insomma, e di interessante. 800 24 00 24. Tosi però non ci risponde, allora ci divertiamo con gli ascoltatori. Cosimo da Roma, buongiorno. Eccoci, spero di far divertire qualcuno. Buongiorno, sì. A tutti. La ricetta della variante del padding era molto interessante, ma parleremo di instabilità e non di stabilità. Ah, per lei era un padding quello lì, quello lì della padding, signora Maria. Sì, era un padding, solo ammollato nell'acqua anziché nel latte, però sì. È molto interessante, una prova che devo fare. Lei ama cucinare, Cosimo? Io amo cucinare moltissimo. Bravo, moltissimo. Bravo. Non sprechiamo mai gli elementi, mi raccomando, perché poi il senso del gioco è questo. Lei però voleva parlare anche di economia. Di legge io di volevo stabilità. Parlare di economia, sì. Voglio parlare di economia perché purtroppo mi sento offeso tutti i giorni da propagande inutili. Ho studiato economia e ho studiato su un libro che ritenevo autorevole, che era il Monti Fornero, ha fatto l'esame di economia 1 col Monti Fornero, che diceva l'esatto contrario di quello che fanno i politici oggi, quindi quello che vedo è tanta propaganda. Comunque vado al sodo, altrimenti diventa propaganda anche la mia. La legge di stabilità, la stabilità parte dal basso, e parte dal basso distribuendo la ricchezza, cioè lo Stato si prefigge di incassare delle tasse per distribuire la ricchezza e quindi rendere mantenere avere una certa eguaglianza, quindi far girare l'economia. Sì. Quando c'è un aumento costante delle tasse, no? L'abbiamo visto con l'IVA, non so più neanche a quant'è, mi pare al 22-23%, con una impennata dei costi, basta farsi un conto elementare: in un piccolo paese di 60.000 abitanti con un reddito medio di 1.200 euro, togliamo il 2% ad ognuno di loro e capiamo immediatamente quanti esercizi chiudono. È facile, vero? Perché se sottraggo moneta circolante, per forza di cose la gente non spende, gli esercizi chiudono. Ecco che si cominciano a verificare le prime assenze di posti di lavoro. Se un governo non incide mai su, sì, quelli che sono gli sprechi della pubblica amministrazione, noi tutti sappiamo ce ne sono tanti, a partire anche da stipendi assurdi dati a commesse della Camera e del, sì, Senato. Sulla carta però, Cosimo, è quello che si sta anche cercando di fare, perché anche questo taglio alle regioni vuole limitare gli sprechi. Poi un conto è dirlo, un conto è farlo. Comunque, Cosimo, ha finito il suo ragionamento? Mi sembra di sì. Sì, il ragionamento è unico. Tutto quello che facciamo non renderà stabile il nostro paese, tutto quello che facciamo renderà più instabile il nostro paese, perché già si parla dell'aumento dell'IVA per il prossimo, sì, anno. Abbiamo vissuto la TASI e la TARI. Vabbè, che queste sono cose passate. Grazie, Cosimo. C'è da dire una cosa, prego. Però c'è da dire una cosa che qualcuno lo ha detto. Insomma, è chiaro che questi tagli anche alla spesa possono avere anche degli effetti recessivi, perché si tagliano degli sprechi, ma si tagliano anche delle fonti di reddito per tante persone, per esempio nel settore pubblico, e quindi c'è anche questo rischio, che è un po' quello che diceva lei. Maria Rosaria Da Lucca, è il rischio che io credo che valga la pena di essere corso, sia chiaro, perché gli sprechi vanno comunque tagliati. Buongiorno Maria Rosaria. Buongiorno. Eccoci qua. Allora, volevo dare la mia ricettina molto semplice. Sì. Per evitare gli sprechi, sì. La usiamo in famiglia, naturalmente. E niente, cosa avanza di solito a tavola? A parte che la ricetta principale è quella di non cucinare troppe cose, quello di non abbondare troppo. Comunque quello che avanza, tipo il pane che rimane lì, pezzettini, rimangono a volte avanzi di pasta, avanzi di verdurine, carote, zucchine. Io nell'arco della settimana queste cose le tengo via, non troppi giorni. Poi le mischio tutte insieme, tritate a pezzettini, ci metto dentro l'uovo, ci metto dentro il pane, naturalmente che è secco si fa mollare un pochino, no? O col, sì, latte o col brodo, a seconda uno quello che ha. Si mette dentro un po' di formaggio, prezzemolo, insomma queste erbette profumate, basilico, quello che uno ha in casa, un po' di pepe, un po' di cannella, quello secondo i gusti. Vabbè, lei non secondo si ferma più, cioè è partita leggera, poi ha cominciato a mettere uova, formaggio, prezzemolo, cannella, pepe, e poi cioè è buona per forza questa ricetta. E quindi concludendo, delle polpette profumate. E si friggono? Se c'è un po' di carne si mette anche quella, se non c'è pazienza. Ma si friggono poi queste cose? Si friggono, oppure si possono cuocere in forno se uno non ama la frittura. È meglio, no? È più leggero. La cottura in forno sicuramente è più leggera. Brava Maria Rosaria, questa è una bella ricetta, le polpette mettendoci dentro tutto praticamente, tutto quello che avanza, naturalmente stando attento che non sia andato a male, no? Non c'è un alimento specifico, ma un po' anche al ci può stare dentro tutto, va bene, grazie anche a lei Maria Rosaria. 800 24 00 24, riprendiamo anche con le vostre ricette contro lo spreco di alimenti dopo il giornale radio, più tardi. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Shapes and sizes. I'm a man who's got very specific taste. My Type, Sam Motel, la canzone segnalataci dall'ascoltatrice Marzia Lugano. Il vostro Si può fare musica, continuate a segnalarci le vostre canzoni anche subito adesso, per esempio sulla bacheca Facebook di si può fare trattino Radio 24, o su Twitter, il nostro account è chiocciola si può fare 24 e il mio chiocciola Ale Maurizi. Adesso all'800 24 0024, così abbiamo dato tutti i contatti, riprendiamo a sentire gli ascoltatori. Abbiamo Isabella che ci chiama da Milano, buongiorno. Esimio dottore, buongiorno. Allora, io volevo dire due cose velocissime. Sì. La ricetta, io sono ex figlia di maresciallo maggiore dei granatieri, mio padre purtroppo non c'è più, eravamo cinque di noi, tre figlie e una moglie e lui. Dunque, allora, noi con il pane raffermo facevamo le polpettine di pane, perché la carne costava cara e non si poteva comprare, si mangiava una volta, due volte al mese. Certo. Le parlo degli anni 50-60. Niente, morale della favola, si piglia questo pane raffermo, si spugna, sì, nel latte, sì, è meglio nel latte, se poi non c'è il latte, all'occorrenza uno mette l'acqua. Una volta che si è spugnato bene, si preme, si strizza e si fa asciutto. Poi secondo le quantità uno si regola, o due uova o tre uova, io in genere metto tre uova per un tre quarti di pane, va. Niente, poi dentro si fa un bel trito di prezzemolo, sì, poi si mette l'aglietto tritato, mm-hmm, poi si mette praticamente un po' di sale, e si impastano, basta, non si mette e poi si, e poi si frigge o e poi si friggono, no, si passano nel pan grattato e si friggono, poi con questo impasto, sì, si può fare anche un polpettone. Va bene, il pane è il re assoluto delle ricette di alimenti riciclati, fino ad ora. Isabella, grazie, lei voleva dire anche qualcos'altro? Un'altra cosa, volevo, sì, dire e poi chiudo, sì, volevo dire solamente che per aiutare questo paese, sì, con le tasse, ma sono anni che mi batto, ma perché non riapriamo regolarmente, pulitamente le case chiuse? A chi sceglie di fare quel mestiere si fanno pagare le tasse, mi sembra più che giusto, e si eliminerebbe tanta melma, lei mi comprende. Che detto da una donna ha anche un valore in più, io sono d'accordo con lei, è un'ipotesi ma molto futuribile, per il momento abbiamo inserito dentro il PIL, i costi dell'economia sommersa, compreso forse anche questa voce, grazie. Andiamo con Raul che chiama da Modena, buongiorno. Buongiorno, salve, complimenti per la trasmissione. Grazie. Le faccio perdere poco tempo. Io sono un elettore del PD, sì, e sono completamente a favore di Renzi, soprattutto per la nuova finanziaria che ha fatto. Perché? Perché intanto gli 80 euro me li ha dati e me li ha confermati, cosa che nessun governo ha fatto negli ultimi 20 anni. Prima. Però lei mi conferma seconda... allora che questi 80 euro, come dicono alcuni critici invece, sono un po', come dire, una... cioè lei vota Renzi convintamente anche per, no, questi 80 euro? No, io voto Renzi, cioè... perché io sono di sinistra del mio partito e mi ha convinto in tutto, soprattutto adesso con questa polemica con le regioni. Le regioni, sì, si devono solo vergognare per quel che hanno fatto negli ultimi 10 anni, per quello che hanno sperperato e rubato ai nostri, alle nostre spalle. Adesso vengono a fare anche gli offesi moralisti, che non, loro taglieranno le loro spese a partire dai loro stipendi, a partire da tutti quei, abbiamo in Calabria 200.000 forestieri, abbiamo delle forestali, cose forestali, sì, scusi, delle cose inaudite, e stiamo a guardare il 2%, ha ragione Rizzo del Corriere della Sera che ha fatto dei libri sugli sperperi delle regioni. Va e bene. Adesso stiamo a contestare Renzi, è una cosa che fa vergognare, soprattutto anche da parte di alcuni giornalisti. Grazie Raul, grazie. Silvia da Milano, buongiorno anche a lei. Buongiorno, che bella la vostra trasmissione. Grazie. Perciò, se mi resta del riso, è per me una gioia, perché faccio gli arancini col riso perfetto. Però scusi, se le resta del riso, ma lo cucina spesso il riso? Sì. E quindi poi con questi avanzi fa gli arancini, ma ci mette dentro dell'altro oltre, sì, al riso? Certo. Cosa? Lo condisco con abbondante parmigiano, piselli, quindi ne prendo un giusto quantitativo e faccio una coppetta nel palmo della mano. Metto dentro prosciutto se ce l'ho, se no solo formaggio, chiudo la coppetta con altro riso, stringo bene e passo l'arancino prima nella farina, poi nel bianco d'uovo, quindi nel pan grattato. Ma è molto elaborata la ricetta dell'arancino, non lo sapevo. È facilissima. C'è farina, bianco d'uovo e pan grattato. Sì. Tre piatti di

domanda. Allora, io credo che intanto noi avevamo deciso di rientrare, di investire in Italia ancora prima che questo venisse confermato. Certo. Io sinceramente credo che tutto ciò che va nella direzione di aumentare la flessibilità del mercato del lavoro e allo stesso tempo ridurne il costo per una realtà come la nostra, per forza è una buona notizia. Perché intanto, appunto, come dicevamo, l'asset principale di una startup sono le persone, e se riusciamo a rendere il costo delle persone più inferiore, chiaramente è una bella notizia. Quindi sì. Benissimo. Pensi che questa cosa possa, voi avete deciso di farlo prima dell'annuncio del taglio dell'IRAP, perché qualcuno dice ma magari ci saranno le aziende che si metteranno in tasca i soldi legittimamente risparmiati da questo taglio dell'IRAP, non è detto che ci siano nuove assunzioni. Tu che adesso sei un imprenditore da poco, un giovane imprenditore, pensi invece che questa cosa possa incentivare altre, mi sembra che tu abbia già risposto di sì, insomma, altre aziende ad assumere? Assolutamente sì, perché appunto la domanda sarebbe da fare al contrario: perché no? A questo punto non ci sono quasi più scuse per non assumere, per non coinvolgere persone. Se un'azienda ne ha bisogno, assolutamente sì, chiaramente le cose saranno di molto più semplificate. Va bene, grazie mille Giacomo Mogio, amministratore delegato di fluentify.com, in bocca al lupo per la vostra attività. Crepi, grazie, buona giornata. Grazie per essere stato con noi, buon sabato. 800 24 00 24, tornare in Italia, a lavorare, vedete, si può fare e noi ne siamo felici. Ancora con un paio di ascoltatori prima di chiudere, va? Carla da Milano, buongiorno. Buongiorno. Prego. Allora, ma io volevo intervenire prima sulla legge di stabilità che è appena uscita. Sì. Io devo dire che la trovo molto positiva e sono un po' stupefatta della dietrologia di tanti interventi, perché è come se la gente vedesse prima gli effetti del secondo ordine, scusate, io sono un fisico, e dopo solo quelli del primo ordine. Ora, quali sarebbero quelli del primo ordine? Quelli del primo ordine è come in un'equazione, sono quelli del taglio dell'IRAP, che è sicuramente positiva per le aziende. Sì. I contributi alle aziende per assumere i giovani, fondamentale per i giovani e per le aziende. Sì, il taglio, diciamo, dei contributi su neoassunti, quasi 2 miliardi di euro. Il taglio dei contributi sui neoassurdi, neoassunti, gli 80 euro di bonus, perché non saranno dati in busta paga, ma saranno detratti e quindi andranno comunque a aumentare l'imposta, dal pagamento delle imposte, e quindi andranno sicuramente a aumentare il reddito, la possibilità di spesa, e avranno una ricaduta positiva ovviamente sul commercio, per ovvi motivi, perché se c'è più soldi in circolazione. Sì, sì. Il problema forse, Carla, è quindi, non so se sono quelli che lei definiva effetti del secondo ordine, cioè il problema del reperimento delle risorse, come sempre credo, e per esempio questi 11 miliardi di maggiore deficit in più, cioè soldi che lo Stato non ha e che andrà a finanziarsi con il deficit, in un momento in cui invece sappiamo che il deficit andrebbe ridotto. Però insomma, questa è questione di punti di vista. Carla, grazie. Michele da Napoli, buongiorno. Buongiorno. Mi aggancio sempre alla legge di stabilità. Sì. Io sono stanco dei soliti pianti greci delle regioni quando si tagliano i fondi. Non è sempre la stessa cosa. Viva Renzi, che finalmente ha detto la verità. Non è che se cambiano, se si diminuiscono gli stanziamenti, bisogna comunque aumentare le tasse o ridurre le prestazioni. In sanità, visto che fa parte è più del 50% del PIL, c'è tanto da ridurre, ci sono gli sprechi, non sulla grande apparecchiatura di cui se ne compra una o due, ma sul materiale di consumo quotidiano. Sì. 10, 20, 30 centesimi su una siringa sterile o su un ago sterile, le parlo da ospedaliero, moltiplicato per i milioni di materiali d'uso, fanno una cifra enorme. Le apparecchiature elettromedicali date dalle aziende in comodato d'uso gratuito, per far funzionare le quali bisogna comprare dei reagenti o del materiale di consumo costosissimi. Insomma, veramente c'è tanto da fare e non si può solo semplicisticamente scaricare tutto sul cittadino, perché lo Stato mi ha tagliato e allora vado ad aumentare le tasse o fare qualcosa. Va bene, grazie Michele, lei su questo ha ragione, almeno io sono d'accordo con lei, ma lo dicono tutti, la benedetta questione dei costi standard della sanità, solo su quello si aspettano risparmi annunciati, ma che insomma tardano un po' ad arrivare. Anche questo è stato detto, perché le attese che c'erano per l'applicazione dei costi standard, che pure sono già partiti, sono andate un po' deluse, perché di grossi risparmi per ora nelle spese sanitarie della regione, da quel punto di vista lì, non se ne sono visti. Vorrei sapere anche cosa ne pensate, cari ascoltatori, all'800 24 00 24, però, di questo miliardo di euro che il governo vuole prendere da maggiore entrate dalle slot machine. Ci sentiamo tra un attimo. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Spazi di edilizia pubblica abbandonati e recuperati è un'iniziativa. Si chiama Disponibile, lanciata la Cittadinanza Attiva, che noi diciamo così appoggiamo e seguiamo con interesse. Vengono segnalate tutte iniziative positive in questo settore, si cerca di favorire anche la partecipazione delle associazioni, dei cittadini, dei comitati, degli enti locali. Può sembrare una cosa di poco conto, ma recuperare gli spazi edilizia pubblici abbandonati può aiutare la crescita, perché insomma può essere una sede per delle attività che possono trovare quindi una casa. Si fanno investimenti economici anche per il recupero edilizio di questi spazi, e poi ci sono le minori spese di manutenzione degli enti pubblici che avevano sul groppone queste situazioni. Un caso virtuoso lo abbiamo trovato in Lazio, dove la regione sta assegnando delle vecchie case cantoniere agli enti locali e alle associazioni. Ne parliamo con l'assessore al bilancio della regione Lazio, Alessandra Sartore. Buongiorno, benvenuta. Buongiorno, buongiorno a tutti. Voi avete lanciato un bando qualche tempo fa per appunto l'assegnazione di queste case cantoniere che vediamo insomma quando andiamo lungo le nostre strade, queste credo anche le case dell'ANAS, adesso ci dica lei esattamente di che cosa stiamo parlando, per appunto assegnarle. Cosa prevede questo bando? Sì, praticamente è un piano di rientra il tutto in un piano di valorizzazione del patrimonio immobiliare regionale. La Regione Lazio ha un patrimonio immobiliare immenso, abbiamo fatto un grande passo per clusterizzare insieme all'Agenzia del Demanio tutto il patrimonio, e questo ci ha permesso anche di capire bene la dimensione e il numero dei beni che noi possediamo. Tra questi, sempre pervenuti alle regioni dal diciamo trasferimento delle competenze statali, sì, abbiamo anche 137 immobili che sono appunto le ex case cantoniere, che sappiamo stanno anche in dei posti molto belli, no? A volte sono quelle che spesso vediamo lungo la strada, no? Appunto, esattamente, le famose case rosse, no? Sì, qui adesso ci hanno scritto da poco anche un bel libro. Quindi noi ne abbiamo 137 di questi immobili. Sì. Abbiamo fatto un bando nei confronti degli enti locali, prioritariamente su 36 case cantoniere. Perché 36? su 137, perché sono quelle che sono in buono stato e libere, perché è anche possibile che talune di queste, proprio perché purtroppo non sono in parte anche, come dire, abbandonate, perché sì, stanno su tutto il territorio. È evidente che la regione può fare tanto, ma non è che può fare tutto, no? Quindi sostanzialmente queste 36 case cantoniere sono state in qualche modo, se abbiamo lanciato questo bando, prima nei confronti dei comuni, nel caso in cui i comuni non potessero o non avessero progetti specifici, possono rientrare le varie associazioni, tutte le associazioni di qualsiasi tipologia, insomma, quindi per presentare dei progetti. La cosa importante è che ha avuto molto successo il bando, sì, e sono arrivati già 24 progetti da parte di vari comuni. I progetti sono anche interessanti, diciamo, li stiamo valutando. Quindi, scusi, 24 su 36 ci sono ancora delle case cantoniere libere? No, quindi. Esatto, ancora si trovano. Quindi fatevi avanti, amici delle associazioni, sì, dei comuni, sì, perché in Lazio ci sono delle case cantoniere disponibili. Mi dice una cosa però, prima di andare avanti, che tipo di affidamento? Si tratta di comodato, d'uso, di affitti low cost, gratuito, regalo, cos'è? Sì, praticamente lo assegniamo a un cosiddetto, diciamo, vi faccia passare la parola in burocratese, canone ricognitorio. Nel senso comunque pagheranno un canone, perché è una concessione da parte della regione che logicamente gestisce questo patrimonio che non è proprio, è dei cittadini della regione. Speriamo un canone, insomma, ecco. Esatto, diciamo che è stata mia prima cura fare una delibera a carattere generale che prevede per queste tipologie di canoni una possibilità di abbattimento dello stesso, perché viene gestito per finalità in qualche modo anche sociali, culturali, ma diciamo che a carattere generale questa delibera, fino al 90% del valore di mercato. Quindi diciamo che è un grande passo avanti. Dico questo che ha un'analogia anche con la disciplina normativa dello Stato, anche l'Agenzia del Demanio ha situazioni analoghe. Quindi io però, scusi, logica... vorrei dire una cosa, perché immagino già gli ascoltatori che sentono e che magari potrebbero criticare e dire, beh sì, poi andranno queste cose, una critica potrebbe essere, andranno ai soliti noti, no, ci sono dei bandi trasparenti eccetera. Per quanto riguarda i canoni, bisogna ricordare che la regione risparmia, anche se concede a canoni agevolati a basso costo, risparmia poi i costi di manutenzione, cioè di tenersele sul groppone, quindi comunque è un risparmio, è un minor costo per la regione. Quindi ascoltatori, non preoccupatevi se i canoni sono bassi d'affitto di queste case cantoniere, è giusto così, perché se no nessuno si farà avanti per recuperarla e per dargli nuova vita. No, ho detto bene, assessore? Mi sembrano sagge parole, cioè sostanzialmente altrimenti i beni immobili, invece di essere un valore, stanno diventando, sono un onere. Una spesa, un costo, un certo. Onere sostanzialmente molto pesante, perché logicamente il patrimonio va mantenuto, quindi opere di manutenzione ordinaria e straordinaria, ci ritroviamo altrimenti, diciamo, in questo modo noi sosteniamo un minor costo, abbiamo anche un piccolo introito e in più manteniamo il patrimonio, perché nella sostanza chi lo occuperà per fare, certo, lo terrà in vita. Lo terrà in vita, lo darà per in qualche modo, lo spazio sarà a carattere sociale, socio-assistenziale, culturale, e diciamo che attraverso questo penso che l'effetto indotto, non soltanto l'effetto diretto di avere un risparmio proprio in termini economici, ma l'effetto indotto sul territorio è enorme, no? Perché in qualche modo rivitalizza, certo, anche sì, situazioni morte. E si risparmia quindi anche il suolo, me lo faccia dire anche questo, esatto, questo è importante. Si risparmia il suolo, ma sicuramente ci saranno anche attività produttive intorno a questo, no? Perché quando si rianima un territorio si rianimano anche i soggetti che tutti intorno creano il tessuto produttivo. Senta, e quindi, sì, a proposito di trasparenza, a questo punto chi volesse farsi ancora avanti, visto che ci sono delle case cantoniere ancora libere e ci saranno degli altri bandi, cosa deve fare, dove deve andare, su quale sito, su quale... Diciamo che basta che guardi il sito della regione sotto l'assessorato al bilancio e al patrimonio. Sì, è una cosa facile, spero di sì, non me ne faccia complicate queste cose, perché sennò poi i cittadini si scoraggiano. No, assolutamente, assolutamente. Poi veramente ovviamente noi lo rimettiamo anche sul sito internet, proprio il sito della regione, quindi è facilissimo. Spero che ci sono ancora alcuni comuni che non hanno l'assegnazione, e quindi è importante che questo... voglio ricordare che sono arrivate richieste anche per adibire gli spazi a Protezione Civile, Croce Rossa, siamo cose anche importanti, non cose solo cose diciamo così leggerine, non solo balli diciamo e cotillon, ecco, ma anche cose importanti. Va dare bene. Un posto anche alla Croce Rossa sul territorio mi sembra una cosa rilevante. Va bene, grazie assessore Alessandra Sartore, buon lavoro, in bocca al lupo, complimenti per questa iniziativa. Regione Lazio, assegnate le case cantoniere ai comuni, alle associazioni. Manca ancora qualche comune che si faccia avanti, ci saranno gli altri bandi, ci sono iniziative simili anche in altre parti d'Italia, è giusto segnalarle, è giusto dirle, questa la volevamo raccontare perché è una delle più grosse che c'è in atto, e grazie anzi anche a Cittadinanza Attiva per avercela ricordata. Adesso è il momento di ricordarvi un appuntamento, chiudiamo qua con l'ultima coppia di segnalazioni, le storie di AXA, Nati per Proteggere, un'iniziativa di cui avevamo parlato a suo tempo, perché ci sono 50.000 euro in ballo per una di queste 8 iniziative, 8 associazioni benefiche, associazioni nate appunto per proteggere. Andate sul sito, votate, perché è giusto che sia la gente a poter scegliere. Noi avevamo parlato all'inizio, vi abbiamo accompagnato sin qua raccontandovi tutte le storie, adesso sentiamo le ultime due storie. Pur di giungere fin da noi, i migranti lasciano tutto e mettono a repentaglio persino la loro vita. Capita spesso che in questa condizione si trovino dei bambini soli. Pensiamo a quanto possa essere fragile un minore, senza adulti di riferimento in una terra straniera. Di loro si occupa l'associazione Accoglierete, fondata da Carla Trommino. Al porto di Augusto sono arrivati 4.000 minori stranieri non accompagnati, sono ragazzi soli senza genitori. Pensate che se vostro figlio arrivasse in un luogo senza mamma e senza papà, quanto è importante che una persona adulta si prenda cura di questi minori. Questo è il nostro progetto, dare ad ognuno di questi minori una persona adulta che si possa prendere cura di loro, che è un tutore, e questo vuol dire anche metterli in sicurezza e fare in modo che non finiscano nella rete del traffico, della tratta, che è anche tratta di organi, che è tratta a scopo sessuale per dei ragazzini, che appunto è come se fossero i vostri figli. Nasce per proteggere anche l'associazione Together to Go Onlus, TOG, che offre terapie riabilitative a bambini con lesioni neurologiche complesse. Nel centro aperto nel 2012 a Milano sono stati curati 100 bambini nel 2013, come racconta Antonia Madella Noia, direttrice responsabile del centro TOG. La fondazione TOG, Together to Go, è una fondazione Onlus che si occupa di curare gratuitamente attraverso una riabilitazione complessa e qualitativamente di alto livello, 106 bambini che sono affetti da patologie neurologiche complesse e vivono nella città di Milano. La riabilitazione è quasi l'unica cura che esiste per questi bambini, che nascono con questo tipo di deficit che a volte è veramente complesso, generale e dolorosissimo, perché afferisce sia al loro movimento, che alla loro cognitività, che al loro comportamento e alle questioni legate al linguaggio e alla comunicazione. La Fondazione TOG è una fondazione che offre questa riabilitazione gratuitamente, la offre a 106 bambini, potrebbe fare di più, ma naturalmente erogando le terapie in maniera gratuita ha bisogno di trovare molti fondi e di essere molto aiutata. Per conoscere e votare queste e le altre storie andate sul sito natiperproteggere.it. C'è niente che non si possa fare. Si può fare. Si può fare. Cronache da un paese migliore. Eccoci qua, 800 24 00 24. Un paio di ascoltatori, Maurizio da Genova. Poi diciamo anche chi si aggiudica il premio per la ricetta di recupero degli alimenti più bella di tutte. E chiudiamo con Bologna, dove oggi c'è una bella performance in occasione della giornata mondiale dell'alimentazione. Maurizio da Genova, buongiorno. Buongiorno, salve. Volevo intervenire sul fatto del miliardo di recupero fiscale sulle macchinette, sui giochi d'azzardo. Sì. Io sono un giocatore compulsivo, sono in recupero da un anno. E il problema secondo me non è... È in recupero da un anno, cioè si sta curando? Sì, esatto, esatto. Sono, diciamo, astinente da un anno. Bravo, complimenti. Un anno senza giocare per una persona che ammette di avere un problema è tanto, complimenti, in bocca al lupo. Ma è dura smettere, Maurizio? È dura perché io ho trovato in mille maniere, poi ho trovato la mia strada e adesso... Ma quanto giocava lei, tanto? Grosse cifre? Il problema non è la cifra, perché io ho variato le cifre a seconda del mio tenore di vita. Io ho cominciato 24 anni fa, quindi le mie possibilità economiche erano più basse. Adesso sono professionista con possibilità economiche più alte. Il problema è che se hai uno e giochi uno e sei 100 e giochi 100 è sempre un problema nello stesso modo, certo. Il problema è appunto il fatto che ora c'è questa polemica sul miliardo del recupero fiscale. Io 24 anni fa non c'erano le macchinette, cioè un gioco legalizzato, c'era soltanto il casinò oppure il totocalcio oppure il lotto, e io comunque giocavo nel mio anno di recupero. Però adesso, scusi Maurizio, lei giocava, però le occasioni di gioco erano diverse, cioè giocava alla schedina una volta a settimana, oppure andava al casinò, però doveva andare al casinò, non è che dietro casa c'avevano le sottoscioli. 24 anni fa, io quando ho cominciato a giocare, io giocavo ai videogiochi normali, quelli ludici, e poi mi hanno messo le macchinette non gestite dallo Stato, quelle con i bigliettini, e io giocavo in quelle macchinette lì. Quindi c'è sempre stato comunque qualcuno che si arricchiva su queste cose. Va bene, qua. Va bene. La stessa cosa, concludo, poi lascio lo spazio agli altri, è la stessa cosa sul tabacco e sull'alcol. Lo Stato ci guadagna su quello, ma porta malattia a sovrania. L'unica cosa, secondo me, che sarebbe utile fare è sensibilizzare e potenziare i servizi sul territorio sul recupero delle malattie. Ed è quello che tutte le leggi regionali che stanno intervenendo in questi mesi in Italia sulla ludopatia dicono di voler fare, cioè tassare un po' anche il gioco e investire una parte di queste entrate fiscali per a quel fine, insomma, per aprire servizi che poi curino anche le persone. Ma bisogna mettere anche dei paletti, secondo me, dei limiti, perché lei giocava anche 24 anni fa, ma oggi si gioca di più in Italia, lo dicono i numeri. Adesso andiamo a Bologna per la performance in occasione della giornata dell'alimentazione. Bologna di Pixel Art in 3D, 10.000 piatti vuoti che simboleggiano la fame e 7.000 palloncini che rappresentano le spighe di grano, simbolo della vittoria sulla fame. Ne parliamo con Giovanni Beccari, che è responsabile della comunicazione di Cefa Onlus. Buongiorno. Buongiorno a voi, benvenuti con noi in Piazza Maggiore, c'è un sole bellissimo. E che meraviglia, idealmente siamo con voi, siamo con voi idealmente. Sì, mi dispiace che non vediate, ci sono già circa... penso 7-8 mila piatti posati. Che bello. Sono vuoti, ci sono tutti i volontari, gli scout, i bambini delle scuole che li stanno posando. Però per vedere tutto bisognerebbe essere dall'alto. C'è un drone che riprende tutto? Assolutamente, a Bologna abbiamo le impalcature su uno dei palazzi che si affaccia alla nostra piazza, che è Palazzo Renzo. Certo. E da Palazzo Renzo ci hanno dato la possibilità di salire per vedere. E poi nello stesso anche dal Palazzo Comunale, che è un altro lato della piazza. Quindi la gente può veramente vedere tutto dall'alto. Ma la cosa sarà molto spettacolare, Giovanni, però diciamo che l'importante poi alla fine è questa raccolta di fondi. Come si fa a partecipare? Si fa in questo modo, la gente adesso vede i piatti vuoti e vede degli angoli, delle postazioni in cui vengono vendute delle spighe di grano. e queste poi prendono le spighe di grano a 5 euro l'una, il costo di un piatto di spaghetti, un piatto di ragù, di pasta al ragù, e dando la donazione di 5 euro si impossessano di una spiga di grano e la vanno a mettere fisicamente sul piatto vuoto. Quindi noi vinciamo la fame con un campo di grano, un immenso campo di grano, e tutti i fondi verranno raccolti dal CEFA per i progetti in Sud Sudan, dove abbiamo bisogno di sementi, di attrezzi e tanta formazione agricola per le famiglie contadine. Certo. Quando si concluderà il tutto, che sarà vedibile poi nel suo splendore, in giornata? Noi ci collegheremo in streaming, in diretta, andando sul sito del CEFA, cefaonlus.it, si potrà vedere dalle 14 Perfetto. Fino alle 18, perché tutto si concluderà alle 17, quando daremo a più di 200 persone delle forbici per falciare il campo di grano. E partiranno i palloncini. Grazie Giovanni, dobbiamo fermarci qua. Grazie. Cefa da Bologna non ci sente perché in Piazza Maggiore c'è confusione attorno a lui. Vince la ricetta per non sprecare il cibo Maria Rosaria da Lucca. Vince quindi i biglietti per la mostra di Van Gogh. Grazie a tutti, grazie a Andrea Piana, a Giorgio De Luca e a Filippo Origi Regia. Ci sentiamo domani, buona giornata da Alessio Maurizi. Ciao. Sì.